Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eh sì, buonasera a tutti, apriamo le porte del nostro studio, apriamo il nostro la nostra Ristoradio Convento, benvenuti a tutti, io sono Master Nick e questo è sabato 21 luglio del 2018 e come ogni settimana mentre fuori il mondo balla, salta, si diverte e imperversa l'energia, noi qui ci prendiamo un attimino di calma, prendiamo il nostro spazio per parlare con i veri protagonisti di questo sabato, ma di ogni serata in particolare, che sono i festeggiati, e diamo loro modo di raccontarsi, di dirci qualcosa, facendoli insomma girare, chiacchierare un po' insieme a noi. Il primo festeggiato, o meglio la prima festeggiata della serata che inaugura, è una bellissima, fantastica sposa che per non sentirsi lontana da casa non si è ancora tolta la borsa di dosso, se la tiene ancora proprio attaccatissima, o ha paura dei borseggiatori perché pensa di essere in metro a Milano, oppure non lo so, adesso oppure ha 100.000 euro all'interno della borsa, potrebbe... Ha guadagnato soldi, ecco perché praticamente voi non vedete essendo però ecco, lei lavora in un supermercato, si è portata parecchi succhi di frutta e quindi ha venduto succhi a un euro, questo è stato un po' il motivo importante della serata e sono andati forte e sto dicendo tutto questo naturalmente per non comprometterla, perché sul cartello c'è scritto altro, ma nessuno saprà mai in verità cosa c'è scritto sul cartello. Intanto diamo il benvenuto a lei, come ti chiami? Rosanna, benvenuta. Allora, da dove vieni? Da Brescia. E cosa festeggi qui con noi? Il mio addio al nubilato! No, molto bene, senti quanta gioia, di solito c'è un po' di indecisione, un po' di tristezza, un po' anche di dubbio a volte su questa festa, mentre nel tuo caso tutto tranquillo. Tutto tranquillo, sì. Ormai convinta. Esatto, convinta, sicura, tranquilla. E siamo vicini, sì, perché mancano 15 giorni più o meno, poco più. Sì. Dici un po' quando ti sposerai? L'11 agosto. Pochissimo, veramente tre pochissimo. Sabato. E soprattutto quello che conta è con chi, perché di solito c'è anche un'altra persona con cui ci si sposa, anche se, ti do una notizia, magari l'hai letto, ci sono un paio di fenomeni nel mondo che si sono sposati con loro stessi. Vedi che avrai letto, quindi sei informata. Lei com'è? Era informata anch'io inizialmente. Vedi, affascinante. Pensa che lei non lo sapeva, la ragazza con le trecce, non so come si chiama, la conosceremo presto. E alla notizia le si sono illuminati gli occhi di fronte a questa possibilità e già sta chiamando il suo prete di fiducia per prenotare la sala, perché insomma le interessava. Quindi c'è un lui. Sì, okay, lo confermi, Andrea, lo salutiamo. Ciao. E ciao, questo saluto pieno d'amore, naturalmente questo traspare tutto l'amore di Rosanna per il nostro Andrea. Io te lo dico, ti chiamerò Rosanna almeno 15 volte in questa intervista, quindi ti chiedo scusa adesso per 15 volte, però cercherò di impegnarmi a mantenere Rosanna. Quindi c'è Andrea, molto bene, anche lui è di Brescia? Sì, di Brescia. Vi conoscete da tanto? 12 anni, cavolo che è la classica storia da un po' da fiaba, un po' da libro. Tra l'altro, perdonami, non si fa di solito, ma sei giovanissimo, quanti anni hai? 27 meno 12, la matematica non è opinione, fa 15. Sì, esatto. Quindi praticamente e lui è più o meno coetaneo? 28, beh sì, praticamente coetaneo, quindi banchi di scuola o tipo un giro in bicicletta? Un giro in bicicletta, esatto. Domenica, ma pensa a te, cioè ho veramente sparato a caso una domenica pomeriggio d'estate. Esatto. Sì? E come è successo? Cioè, non perché voglio farmi fatti tuoi, chiaramente, però perché è interessante capire come può nascere l'amore a 15-16 anni. Anche perché poi fino ad arrivare a questo punto vuol dire che è veramente il destino. Avevamo un amico in comune, un giorno siamo usciti tutti insieme e da lì è scoppiata la scintilla. Ma pensa a te, che bello, e che è stato il primo ad avvicinarsi all'altro? Io? Tu? Aia, quindi confermi un po' la teoria che gli uomini sono timidoni e dall'altra parte che invece le donne, se vogliono una cosa e hanno un obiettivo in testa e negli occhi, insomma, lo raggiungono, molto bene. E cosa ti ha colpito di lui? A parte i brufoli. Che a 15 anni abbiamo praticamente tutti. Il carattere. Pensavo il karate, che facesse il karate. Il carattere, non ti ha offerto un Kinder Delis, no, non ti ha offerto una merendina. Il carattere, e che carattere si ha a 15 anni? A 16 anni, perché lui ne aveva 16. Divertente. Sì. Comunque per la sua età era già abbastanza maturo. Sì. Questo mi ha colpito. E ha mantenuto tutto questo con gli anni o... Sì? Sì? Non è cambiato niente? Cioè, sono loro? No, non sono loro. Volumente. Ah, ok. No, perché ha indicato loro, non capisco. Cioè, stavo cercando Andrea tra di loro. Ah, loro confermano. No, pensavo fosse nascosto da qualche parte Andrea. Infatti lo cercavo. E loro possono dare conferma. Mi fa piacere. Quello che stupisce, tra l'altro, in queste storie così lunghe, è che comunque conoscendosi così giovani, il rischio del cambiamento con la vita adulta c'è. Invece, se mi confermi che siete riusciti a mantenere un po' quello spirito adolescenziale e il vostro carattere, questo è... bisogna volerlo, bisogna anche, come dire, sapersi, devo cercare la parola giusta, comprendere, ma adattare al cambiamento, nel senso che è ovvio che diventiamo tutti molto diversi rispetto a 12 anni fa, e quindi bisogna essere in grado di accettare il cambiamento e piacersi in ogni caso, e se ci siete riusciti è una cosa molto molto bella. E, tra l'altro, mi fa piacere anche che tu presenti le tue amiche, che capisco che sono donne non solo dalla fisionomia ma anche dalla maglia. Giustamente maglia rosa per far capire che loro sono donne dalla testa ai piedi. Vai, dici un po' chi ti accompagna stasera. Allora, stasera c'è Chiara, che sarà anche la mia testimone. Oh, poi... brava Chiara, che, a meno che non si sposi da sola, perché nel senso è la tua testimone fino a 4 minuti fa. Io spero che non stia sentendo in questo momento, perché altrimenti da domani... però guarda che c'è convenienza. Poi c'è Natasha, che oltre ad essere mia amica è anche la mia collega di lavoro. Molto bene. Poi ci sono le mie cugine, Silvia e Paola. Le cugine, Silvia e Paola, benissimo. La Paola che tra l'altro ha appena vinto il premio per il miglior documentario filmato con un telefonino, con capelli della testimone incorporati, perché essendo sopra... scusa, lei è la Paola. Ma perché ha fatto Silvia e Paola? Insomma, anche lei non le riconosce neanche più, perché una cugina vale l'altra. Quindi la Silvia, che è la cameraman di questi minuti, e durante il video del matrimonio ci saranno parecchi capelli bianchi della tua testimone, ma non ti allarmare per quello che vedrai. E allora, dicevamo, cosa fai nella vita a Brescia? Un lavoro molto interessante. Io lavoro, sì, faccio l'impiegata. Ecco, l'impiegata, che è pieno di brividi il tuo lavoro. Dalle 8 alle 6, dalle tutti i giorni, traffico alla mattina, traffico alla sera, e la vita è sempre uguale. Solito programma alla radio la mattina, solito programma quando torni. Bene, tutto tranquillo, tutto liscio. Vuoi fare pubblicità, che ci tenevi, la tua azienda? Sì, dai. Fare pubblicità alla mia azienda, che è Elettronica Riparazioni. Mi raccomando, acquistate Samsung, perché è un ottimo marchio, è valido e la qualità prezzo è veramente indiscutibile, quindi acquistate Samsung. Vorrei ringraziare soprattutto anche il mio datore di lavoro, che non cito il cognome ma solamente il nome, magari mi sta ascoltando. No, ti potrà ascoltare assolutamente dopo questo. Roberto, giusto. Ciao Roberto, ci vediamo lunedì al lavoro forse. Addirittura, forse minacci dimissioni in questo modo. No. E niente. Beh, direi che hai già detto tanto. E io volevo salutare il proprietario di Samsung, che dopo Yin Yang. Chi? No, non lo so chi. Sarà coreano. Vabbè, insomma, lo salutiamo dopo queste tue belle parole. Sì, insomma, diciamo che ha già deciso di trasferire l'azienda da un'altra parte e chiamarla in un altro modo, perché ha paura della concorrenza. No, figurati, assolutamente no. Tra l'altro dovete sapere che una delle passioni, me lo raccontava fuori onda, delle passioni di Rosanna è il lunedì e il martedì sera girare per Brescia con una forbice e tagliare l'interno delle tasche di tutti quelli che conosce. Così nel momento in cui mettete il cellulare in tasca, stranamente scivola per terra, si rompe e dovete portarlo. E la cosa più incredibile è che all'interno della vostra tasca troverete magicamente un biglietto da visita dell'Elettronica Riparazioni. E quindi è veramente una strategia di marketing incredibile, che sta funzionando parecchio. L'unica cosa negativa è il costo dell'avvocato che Rosanna si è dovuta prendere per tutte le denunce che ha ricevuto, però insomma funziona, giusto? Funziona. Anche il Corriere della Sera raccontava qualche giorno fa che sono esponenzialmente cresciuti i danni a Brescia di cellulari, e insomma sembrava una moria di cellulari, invece è tutta colpa di Rosanna. Ci fa piacere ricordarlo. Allora Rosanna, vuoi dirci, o anche dire qualcosa a chi ti sta ascoltando? Vuoi mandare un messaggio, visto che hai un microfono davanti, questa possibilità? Volevo incoraggiare tutte le donne, ma soprattutto tutti gli uomini, a chiedere anzi di fare il passo più importante, di sposarsi, perché mi piace. Pensavo... vale veramente la pena fare un addio annubilato come questo. Pensa che io credevo bello. Pensa che credevo a comprare cellulari Samsung, penso che ritornassi lì. No, invece era un messaggio molto bello. E come mai vuoi dare questo invito? Vuoi fare questo invito? Perché la vita è bella e bisogna godersela pieno. Perfetto, allora attenzione, perché tra 6 anni sarà il nuovo papa, la Rosanna. Dopo queste belle parole positive piene di amore, no, scherziamo naturalmente, mi piace questo tuo messaggio di positività, anche perché al giorno d'oggi la maggior parte delle persone ragiona un po' al contrario, quindi mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno che crede nei veri valori, anche perché la tua stessa storia lo dimostra. Ragazze, volete salutare, volete dire qualcosa? Sì, anche voi? Sì, vogliono salutare. Mi fa piacere che tutto sia spontaneo. Vai, anche per, guarda, è la stessa cosa, funziona anche per voi allo stesso modo. Vabbè, è quello che vi passa per la testa, se c'è qualcosa nella vostra testa, magari c'è il vuoto più totale, quindi potete dire ho il vuoto anche. Non ho il vuoto. Perfetto, ho il vuoto. Le altre tre non vale, perché se l'è già giocata lei. Una questa... di loro devono esatto dire qualcosa. Dai. Salutiamo lo sposo, Andrea. Beh, dovrebbe farlo lei in teoria. Va bene che lo fai tu. Sta dormendo. Quello che pensate voi, come sempre, esatto. Vai, volete dire qualcosa? No, nessun altro vuole parlare, niente, non parla la nostra lingua, probabilmente la Silvia non la disturbo perché sta riprendendo. La regia. Esatto, la regia. Va bene, niente, allora lasciamo questo bel messaggio di Rosanna che riempirà d'amore tutta l'umanità. Io vi dico di divertirvi ancora, anche perché vi ho scippate al ballo e vi restituisco alla pista. Dopo questi minuti passati insieme vi vedevo saltare e divertirvi, per cui avrete modo ancora di farlo per un paio d'ore, la notte è ancora lunga, divertitevi. Grazie mille ragazze, alla prossima. Ciao!